positivo vincere, un segnale di 5-6, però ti ripeto, qua oggi è una giornata di sbattere su tutti i canali, non so perché è tutto incasinato qua. Dice, mi avevo fatto un giro per vedere un canale più libero, ma sono ingasato dall'1:40, non ce n'è uno che se ne salva. Ok, ciao vince, ciao, ma dove sei, a Policoro sei? No, ma si sente però, cioè in mezzo a tutti questi sbrati riesco a sentire la voce, cioè il segnale magari certe volte arriva dei sbratteri 7, però la voce si riesce a sentire, Vince. Ciao Vince, ciao, niente, ciao. Hola, attention frequency. Attention channel 10, if you copy North Sardinia Island, Italy calling, station 165, Mike November Oscar, over. Hola, attenzione, canale 10, cambio. Hola, attenzione, il canale 10, l'isola sarda fa chiamata e si sintonizza l'ascolto, break over. Ebbene, Gianni. Ebbene, Luca, non mi racconti nulla. No, sei arrivato già. No, ma mi ha detto, devo arrivare un pacco, però non so se è in consegna oggi o in consegna domani, non lo so, perché per quanto riguarda il coronavirus ci saranno dei ritardi, ma è ritardo di un giorno, ma li arriva domani, buh. Ciao raga, penso che te non mi ha chiamato Luca, vabbè che oggi ero super impegnato, mamma mia, quanti cose ha giurato. Ero super impegnato, pure la sta lavorando, la devo accompagnare, la prenderla, eccetera, quindi è un casino, là. Vabbè, comunque già ci sentiamo, mi fa sapere, dai. Certo, ci sono problemi. Cosa grada? Io pensavo che ti fosse arrivata, ma che magari non avevo avuto tempo di farlo, là. No, te lo faccio subito già. Cioè subito. Se tipo è arrivato stasera, tanto te lo preparo per domani. Sì, già va bene, dai, non c'è problema. La fretta c'è perché questo telefono, Luca, credimi, che dà la pace al gomolo. Facebook non risponde, TikTok non risponde, vai a telefonare non risponde, un casino. Vabbè, non è che sia questo gran telefono anche il P10, vabbè, meglio di 0703 già è. Questo è poco ma sicuro. Guarda che il P10 quando ce l'avevo andava benissimo, andava molto bene, faceva delle belle foto e tutto. Io il P10 lo sto aggiustando per tenerlo, siccome mi aggiustava il mio, capito? Poi vediamo cosa fare. Perché Marco, cioè dopo ve lo ritorni a me, cazzo me la gioca guzzata e durrà a te. Vabbè, dai, già si sistema, già. Si sistema. Male che sono riuscito a smontare bene il coperchio, là, perché l'ha incollato bene, solo c'è la batteria, non si è rotto. Bene, dai, già, quello è completo, completo di tutto, non ti ho preso un display così, completo di tutto, praticamente ha anche il flat del power e del volume del telefono, capito, tutto nuovo. Come mi ascolti con questo radione? Con le orecchie, bene. Questo è il Ruiz. Va benissimo già. Però, c'ero, sono andato a portare i cani, però in due viene male, mamma mia. Luia, stamattina sai cosa è successo con la cavità di fronte? Cazzo, qui sono il campanello, l'ora di pranzo c'è già. Ma sai cosa è successo? Se ero dentro casa, cazzo, mi stavano aprendo la porta. E io pensavo che fosse mia figlia, l'ho chiamata, come l'ha chiamata ho sentito le scale che stava saltando nelle scale, ho guardato e l'ho visto, c'era una maglietta verde e dei jeans. Allora stasera sono gubassato perché sono andato a accompagnare Elena e ho visto questi due zingari, uno aveva la maglietta verde e i jeans. Per carità, basta chiamare subito la pattuglia già. Ma infatti io gliel'ho detto, io non c'ero, no, io l'ho era a fare la spesa, poi è venuto Bombola a portarmi la bombola e poi sono riuscito a fare la spesa perché la stavo per fare e poi mi ha chiamato che era sotto casa, quindi sono dovuto andare e poi sono ritornato. Quindi non c'era, alle 11:30 mi, alle 11:30 che. Magari pensa la signora, non c'è un signore che chi abita, vabbè. Mario, sono a fare la spesa. Già, un casino, ma la porta si deve chiudere anche con i passanti. Sì, già lo so, però loro, questi zingari si sono specializzati anche a aprire le porte blindate, capito? Addirittura, che ha la chiave. Sì, si fanno la chiave, hanno un modo di fare la chiave, entrano a questo affare molle, prendono l'impronta e poi fanno la chiave. Già, Gianni. Ehi, a ciocla. Ma poco fa attaccato lì. Quando? Un minuto fa. Sì, sì. Minchia, cazzo allucinante. Con il voi, sero. Passo via. Quanto è Roberto Quadrato, arrivi, la manza che tiene varia. Aspetta, proviamo. Allucinante, complimenti. Ascolta, dove va la radio adesso rispetto all'altro giorno col Garax che ho cambiato microfono? Va benissimo, va bene adesso. Ehi, che cosa era? Senti quei rumori, mi sono anche preoccupato, quei rumori che si sentivano, fischi, cosa era? La batteria scarica era del Tano più 3, adesso sto usando il Salenta. Invece a me mi hanno fatto il potenziometro, le ho messo un po' di CRC e non l'ha fatto più. Ah. Quando si entra la polvere, il potenziometro fischia. Boh, non so, a me ha iniziato a fischiare, si è abbassata la modulazione. Tutto qua, non è soltanto con Saletta, c'è la batteria scarica, perché non ne ho comprato batteria, non sono uscito, non ne ho comprato, c'è un sacco di cose da fare. È bello Carriere. Claudio, qua sono, mi giù. Ehi, senti la roba, ti arrivando, già va bene. Ehi, me ne pari in bocca allora, te senti che va bene la radio, pure il segnale, non ci interessa. No, va bene la radio, va bene, adesso do la potenza. Se scende di modulazione, no, vai bene Cla, vai bene. Luca qua è 9:10, ma questo Smith è al bar, è rimindo. No, questo è preciso, grazie. Ascolta, hai cambiato la modulazione o è sempre uguale? No, questo qui è Ruiz, capito, non è Galaxy, è Ruiz quello che sto usando. È un po' avvarino, dai, come segnale. Però più o meno, l'ho visto regolare, come avevo 9:10, sono due segnali in più, sarà 9:30. Ma anche quello che avevo io era un po' sordo. Quindi Luca, così il segnale va bene? La modulazione non è cambiata, l'ultima? Più secla, no, non va bene la modulazione, come prima. Ciao, e allora il microfono, la batteria scarica, già va bene. E poco è cambiato da dove sì, me l'avevo di prima adesso, poco. E lui non è cambiato neanche l'altezza, non è che, è che la sfortuna mia è che sono leggermente nella valle, leggermente, 50 metri più sotto. Se fossi stato in punta sono a 200 metri più alto da livello del mare. Ehi, ma va bene lo stesso, pregatene. Non ti preoccupare se. Aspetta, che chiamo mamma già, vediamo un po', stiro notizie, aspetta, se mi risponde, si è arrivato il pacco, aspetta. Gianni, è che mi arrivi una bomba, gatto. Arrivi più forte qua che quando ero a Carbonazzi. Io? E io, tu vuoi. Cappa, e magari ci vedono meglio le antenne, Cla, che tu che ti dica. Cosa stavo dicendo? A oggi 9:30 sono arrivato a Brescia, liscio, liscio, senza, però col cobra, è la verità. È un bel preparazione, cioè, no, io non c'ho tempo, poi ti ripeto Gianni, io entro, vi saluto e basta, perché veramente vedere e sentire quelle cose, cioè cazzo uno sta facendo dei collegamenti, e lei che è un imbecille che si pone a pure importante, allucinante, a me non mi piace modulare così. Già sto modulando poco, sto entrando poco. Se voglio entrare 5 minuti e c'è questo casino, non c'entro per niente. Cavaga, vabbè. Anche a me ha dato fastidio perché ci stavamo divertendo e ha rotto tutta la borra di Babio, me l'ha fatto scendere il latte proprio. Una che mette la portante così, non disturba, non disturba tutta la ruota e anche gli amici di fuori si fanno un brutto concetto. Ma è normale, cioè non esiste una cosa del genere, capito? Anche perché sta adesso perché lei la sta lavorando e la sera è alle 7:30, quindi ho il tempo per fare due chiacchiere, e ho trovato di nuovo il tempo per entrare perché ho già un po' che non stavo entrando e niente, non si può fare nulla, boh. Allora, pazienza, già questi ricchi. Vabbè, ci sentiamo dopo che è arrivata Ilaria a vedere cosa ha portato di buono, eh. Ci aggiorniamo dopo, già, salutami a Luca. E io qua, ciao, ci sentiamo, buona serata. Lascio tutto così allora, questo microfono, tutto così, va bene? Sì, va benissimo, cara. Non c'è nessun problema. Kappa, grazie, dai, ci aggiorniamo dopo, ciao. A me Franco mi ha messo a posto l'alimentatore, quello da 200 euro, quello che c'hai anche tu. Oh, ma io te l'avevo detto. Te l'avevo detto una cosa tempo fa, tu l'hai portato lì. Vabbè, comunque, il parte te l'abbiamo messo a posto Franco. E a me me l'aveva messo a posto Fabrizio. A chi Guido, amante Sebastiano, non aveva bucato bene. Vabbè. Interessante che funzioni adesso, dai, sta andando, lo sto usando, in questo momento lo sto usando, sono tutta la sera che lo sto usando, ce l'ho sotto prova e va benissimo. Ed è una resistenza da cambiare. Ma infatti, a oggi c'è bello una tazza leva, vabbè, lasciamo perdere, ne parleremo di questo. Ciao Gianni, a più tardi se coincide, ciao. Ciao, ci sentiamo. Attenzione sul canale 10, l'isola della Sardegna fa chiamata e si sintonizza in ascolto. Ecco. Hola. Ascoltate il doppio run che chiama, cambio. Tozzo, hola. Attenzione canale 10. Chi è? Buona Stadler, mio hermano. È la stazione Delta Romeo della città di Sassari che ti supera. Cazzo, sembra di passa fixo. A voi che ti passa col tedesco? Come? Lo senti. Via. Attenzione, canale 10, se ascoltate l'isola sarda, cambio. In FM. È in FM già. Non ne ho qua, sto usando il Rust. Per quello. È in FM comunque quello. Per farmi girare un po', se no sta sempre fermo questo Rus, capite? C'avevo il Cobra poco fa e di solito attacco sempre il Galaxy. Ma in più sto provando questo alimentatore che mi hanno messo a posto. E adesso va alla grande. Meglio così, ancora c'ho il mio da fare. Devo cambiare i punti di diodi dall'alimentatore quello grande da 30 ampere. Bisogna che domani mi faccio il giretto a Fusano, mi faccio. Lo prendo, i punti di diodi da 30 ampere e glielo installo. Oh, issa. Issa, vede? Io ce l'ho uno di quelli grandi, quelli pesanti che ci hanno trasformato l'interno, però mi sta facendo la tarracca, non capisco cosa ci abbia, cosa gli abbia preso, perché andava bene, adesso sta facendo l'alternata, quello della Inter, che non so se lo conosci, quel modello, che è un bel pesante. Ah, io ho capito, quello c'ha due strumenti, riccio. Ma se no attacco l'altro all'Intec, stazione base. Guarda, come ha attaccato l'altro palacchino perché ti stanno sopra un ruolo i tedeschi. Thank you. segnalo da questo, ma sei pazzino. Perché questo è omologato, si è provato un metro. Ah, omologato te, esatto. Adesso ho capito. Così è omolocale, come ti sta arrivando? Adesso sei numero 25 almeno. Così è omolocale, Così ti sento benissimo, ti sento. Hola. Auguri, arrivi. Arrivi di lusso. Questo qua è l'Inter, che adesso mi manca da provare solo il 3009. Fidati, li ho provato. 3009, vabbè, il gas lo provo tutta la serie, e anche il Cobra. Mi manca solo il 3009, che vi sta aspettando, però un po' lo vengo. Già sono qua, sono fuori. Sono qua. Tu sei un po' sassolo di radio. Guardi. Cosa sai? Cosa c'hai attaccato? Lo speedy della CTE. Ah, lo speedy, quello non va. Quello con la parola americana. Ma stai saturando, poi c'è stato troppo in avanti. Adesso si è staccato. 1, 2, 3. Questa è la bomba. Qual è che apparecchio sto usando? Il 3009? No, sto usando il Comex 4000 con la mascherina del 3009. Il 3009 ce l'ho sopra. Quello, il 3009 c'ha il GBP 4 ottoni. Ah, capito. E vabbè, dai, comunque l'interno è uguale, dai. Sì, l'interno è uguale. Cambia solo il coso della... che c'ho l'effetto eco. Via così peccato. Insomma, di cose, è questo. Io non, il 3009 non pare che non c'è un letto, c'è solo il volume. Guarda, adesso 2, 3, 4, 5, 6, provano. Scappa, di quegli echi però che rimuovano bene, è tutto il tipico ecco, no? Quando tu fai così fa. E gli acquisto le cose, 4000, quello che ho io, con l'effetto ecco. È uguale al 2009. Adesso è saccato l'eco. Effetto caverna era. Adesso va benissimo, dai, se va bene. E invece nell'omologato ci ho messo il DM1000. Non ti riguarda. Capito? È in scatola. L'omologato, ce l'ho lasciato lì. Che non l'ho mai usato, cioè ho usato sempre due o tre volte. Due volte e mezzo l'ho lasciato, non l'ho neanche modificato. Anche perché quando lo modifichi il FM non va, capito? E quindi la radio è stato così. È fatto bene, non toccare. Uno ce l'ha, c'è da toccare. No, questo qua è il DM1000, questo che sto usando, là, con le che non è adico, è cameraico, c'era il microfono. No, io l'ho messo quel microfono là perché è l'unico che va bene, il DM1000, esce bene, esce di radio. Se metto un microfono su originale fa di schifo. C'è anche la Tarino, questo barattino uguale, capito? Della Colmar. Ah, quello piccolino. Quello piccolino, sì. Se sto facendo bene adesso non lo stai usando, però stai usando il Comex. No, sto usando il Comex adesso. Il Polman va bene solo con microfono amplificato, con DM1000, è l'unico microfono che esce bene. Non è, anche perché lo sai, quell'apparecchio lì, ALC, non esiste di rete, ho capito. Non c'è manco un trimmer. Ah, la modulazione è fissa, là. Esatto, sì, la fregatura che abbiamo trovato di Natalino è quella. Infatti a Natalino avevo collegato l'MB+4 e a lui non andava bene, da lui. Oppure l'M300 va bene, meglio. In istante l'M300 va bene lo stesso. Cavagava. Ma sai quando che rispondo a messaggio? Via. Andiamo bene, andiamo. Che è te? E beh, Luca. Vabbè. Andiamo bene, andiamo. Che è te? Come andiamo? No, tutto gonfio. Tutto preoccupi. Sì. È vero. E allora, tu cosa vuoi che lasciamo però? Dove sei giù? Dove hai messo fuoco la cosa, l'ambulanza? Non ho capito. Sì, sì, da segnale, sì, sì, dalla parte dove hanno messo fuoco l'autoambulanza, l'ho detto. Ah, sì, sì. È una sala di cosa, cazzo, un po' di fuoco. Una volta avete avuto fuoco a stanza del vecchio, adesso hanno cambiato zona. Sì, hanno messo fuoco l'ambulanza, ma più su una piatta multipla. Poi è incendiato due macchine sotto il ponte, poi un furgone che porta le persone disabili alla Teodosia, ma fate di schifo. Sì, non sanno cosa fare, capito? Sanno proprio cosa fare. Ieri ho visto un ragazzo che a Milano con aveva avuto 16, forse 17 anni, con un bidone di benzina in mano, era. Stava facendo un pezzo di Milano, poi ha girato per andare in già diritti, chissà cosa cazzo vuole fare. Per carità, la disgrazia ha preso documento alla macchina, non deve mettere piedi di fuoco. Sta diventando un togliaio questo periodo, voi quelli i nigeriani che si mettono a sparare, cazzo. Ma se cose di droga. Pare che li temano cazzo i poliziotti gira questi nigeriani. Oiaia, lasciamo un attimo, una volta temevano quelli di Santa Maria di Pisa, adesso temono i nigeriani, temono via. Lì per andare bene a farvi fuori tutti devono essere come si dice, devono essere tanti poliziotti e carabinieri, perché loro sono in tanti, capito? E poi il discorso è che sono duri, i soli picchi sono duri, come il cemento armato. E tanto lo fanno, pensavo che ne approfittano perché non li buttano fuori, capito? Non li fanno niente. E un attimo, li metti un giorno in coso, ti fai assaggiare sono una giornata e non è attesa, sono nuovo fuori. Non li puoi fare nulla, capito? Sono tutti senza fissare i modi, adesso li fai. Non li puoi spedire fuori, ci dobbiamo tenere per forza a tracollo noi. L'unica cosa è, ci voleva un coso, ho messo fuoco dentro me, ho preso le cooperative. E allora, aspetta un attimo, arrivo subito. Yeah. C'è qualcuno qua? Attenzione 10. Attenzione 10, c'è qualcuno all'ascolto? Attenzione canale 10 Gambia. Eia, binario 10, senti qua Vitalia Gap. Vabbè, Lucrezia, nulla ci ha appunto. No, mi ha risposto mamma, come al solito, ma stava dormendo. Chi ti sei andato non ha ci ha fatto nessuno praticamente. No, vabbè, se suona già apre, o c'è quello là, capito. Ma non, ho guardato sul sito di ILS, non mi l'ha consegnato, o se mi esce consegnato. In consegna? Vabbè, no, in consegna, poi mi dice consegnato, capito, che l'hanno consegnato. Ah, se gliel'hanno dato, sì. Dato, sì, lo so. Sì, lo. Ma quando è in consegna devi stare alerta, perché l'hanno mandato in consegna. Ehi, guardo domani, dai, domani mattina, verso le 8, che sei in consegna, chiamo un amico che lavora a GLS, gli do il codice e mi dice sei in consegna, così mi faccio dare il numero del corriere, vado e lo recupero io. Ecco. Vai, qua, male. Sono andato a Fusaro stamattina e non è vero di quelle basette. Dice che lui vende solo l'EM. E sul bici la sali, controlla. Sì, ma senza capo quella che c'è su internet. Sigma. Cosa mi riposta una basetta senza capo? Se la devo via se non la sei magnetica. Completa te la danno, vai su internet, cazzo, non ci sai andare, ci stai. Su internet ci sono la base col capo, tu can. Vai e te la usi, e scrivi base per PLC 800 con capo e te la ordini da internet. Sono sono senza capo, te lo sto dicendo, sono già andato. E poi costano un'enormità, senza capo è tutto, mi pare 30 euro quasi. Non so, di un'antenna magnetica e ti la buoni in cibo, già ti gusta, te ne prendi una con la base magnetica, un'altra LC800 e te la metti nel frigorifero come facevi prima. È tutto per una base del cavolo, e ce l'avevo una base così. Io l'ho data da poco, dico la verità, ce l'avevo ma l'ho data da poco, con cavo e tutto. Capito? Ho capito. Che seria. Ma quando mai sa stare che non sa c'è pianta, gas? Ma fai un buco nel frigo direttamente, la sacra antenna, la sai base magnetica. Buonasera. Ciao, fra. Cuocomo non ce n'è un bel Sassari, tutto cuocomo è buco. Ciao, caro. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, ciao. Claudio, come uscivo con l'antenna sul frigorifero? Diglielo a questi qua. Sappiamo non per arrivare a casa, non c'erano problemi. Preoccupa, ma se trovo una base di qualche antenna, ti rabongo nella macchina e mi diro la gioia, originale. E mi compro solo la cosa, la base magnetica nuova. Ma che c'è, venata lì? È la base della PLC 800, cazzo, ce l'ho io, c'ho la macchina bucata, capito? E per quello è che non la voglio togliere quella base, perché non c'ho un'altra base da sostituirli. Perché c'ho la PLC 800, ne ce l'avevo sul frigo io, ce l'avevo con la base magnetica. Era una bomba, mi serviva come antennino per far funzionare l'altro apparato, no? Io qualche attacco dovevo avere, però non so di che antenne, di quelle da 1,60 m sono le antenne in acciaio. Eia, ma cosa dovevo avere da qualche parte, boh. Però a te ti serve che cosa, solo l'attacco o tutto insieme? Oh, la base mi serviva della PLC 800, della Sigma M, quella col maniglione. Aspetta che guardo che marca l'antenna, perché l'antenna ce l'ho qua. Vediamo un po'. Aspetta, è Sigma. Cos'è Sigma quella lì, detto? Sì, questa è Sigma antenne. E c'è la farfallina, la chiavetta per stringere l'antenna, beh. Bisogna vedere come antenna. Perché la mia c'ha un maniglione per chiudere l'antenna, capito? Una maniglia di 4 cm, dai. Dovrebbe essere quella. E questa è completa con la base, con la base magnetica, dai. Piccolina però, una base magnetica piccolina della CTE. C'ha il cavo, c'ha tutto, dai, è completa questa. Quanto ne vuoi, aiuto, così non ne tolgo quella della macchina. No, questa è completa, a volte la uso, capito? Però se la vuoi provare te la do, vuoi provare? No, mi serviva per tenerla qua, cosa? Vabbè dai, cercherò di buscarla questa base. Se busco una base VHF ci metto quella nella macchina e ne tiro la giù. Cioè l'antenna è di anche la parte di sotto, diciamo, dove c'è la parte col filo, dai, con la capsula per il cortocircuito, quella in ottone. Nella macchina ce l'ho quella basetta lì, capito? C'ho l'antenna completa io, solo che io non la volevo togliere dalla macchina, se dovrei avere un'altra base per sostituirla, per tappare il buco della macchina. E sempre per tappare il buco ci mettiamo un tappo con un po' di silicone. Perché? Minchia, non è rientrato, non è venire avanti. È rientrato, ma sei Black? Ok, ciao già. Aspetta, scusa un attimo. Ecco qua. Se non mi sentivo, era troppo basso. Ciao Natalino, ciao Franco. Ciao anche Luca. E forse c'è anche Claudio. Salutoni a tutti. Natali, c'è un piattello che vendono, c'è un piattello, togli l'antenna e c'è un piattello che copre il buco. L'ho fatto altre volte io, non c'è problema, non è così difficile da coprire il tappo della. Un piattello cromato, se non ti piace cromato te lo vernici e così non si nota nemmeno. nastro lo fai bianco come la tua macchina e così sei tranquillo. Riprendi. Io gli avevo messo quello che si mette con tutti i rubinetti, per dire, nel bidet lo metti il miscelatore. Qui tappiglia l'avevo messo, ho messo il silicone sotto e sopra, l'avevo comprato il silicone, non ci vediamo. Io lo stavo vendendo io quei tappi in acciaio e poi anche verniciare. Ciao Giulio, un abbraccio, ben entrato. Avanti Natali. Ehi, vedrò cosa posso fare. Vabbè, riprendetevela, rimango in ascolto. Giulio, ti sento un po' giù di voce, come mai? No, stavo parlando sotto voce. Mi stavo sistemando. Stavo parlando sotto voce, niente di più. Sì, ma è semplice, è una stupidaggine quella, coprire il buco della macchina è proprio una stupidaggine, nello senso della parola. Ci sono dei tappi cromati addirittura, io ce l'avevo così, l'avevo fatto. Quando avevo tolto l'antenna l'avevo fatto. E poi l'antenna l'ho regalata. L'ho regalata a un amico che non è a Sassi, è fuori Sassi, ma sempre in Sardegna. Ed era proprio la PLC 800 nata lì, proprio quella come quella che è giù. Sì, è un'ottima antenna comunque, dai, alla grande. Avanti Gianni. Ehi, là. Vabbè, comunque già si trova. Se gira su internet già le trova. Gli attacchi, se gli attacchi col filo che l'avevo trovato una volta, il cavo era di 5 metri mi pare. Sono tutte senza cavo e senza cavo non me ne posso nulla. Se è completa la puoi comprare, voglio dire, se è completa come coso, se c'è anche cosa da fare sotto, dove si è attaccato il cavo, puoi comprarla lo stesso, sempre quello, nel cavo si può sempre mettere. L'ha fatto il tonnello Barracuda, metti 4 metri di cavo e si è a posto, non è quello il problema, 4 metri di ADG 58 si è a posto. L'ha fatto un Barracuda tempo fa, che mi aveva chiesto quanti metri mettere di cavo, per l'esattezza ce ne vogliono 3,66 metri, una cosa del genere, ma con 4 metri va benissimo lo stesso. L'aveva fatto un treno Barracuda, l'aveva fatto, e usciva bene dal paese, si può immaginare. Va bene, sai come ti piace la salita, è a puttidini. Avanti Franco. Capa, saluto anche Luca che non so se sia in ascolto, e risaluto anche Claudio, dai, vediamo un po' se vuole entrare, Claudio. Ciao Fra, sì, sono qua, ciao. Ce l'ho prima, sono andato a sciacquarmi la testa, sto usando uno shampoo, mi sono uscite queste macchine in testa, ho dovuto usare per 6 settimane. Cosa un piccolino, 17 euro. Macchine solari, dal sole? No, lo shampoo... Cos'è il marito? Cos'è? Tipo psoriasi, però praticamente mi passa se vado al mare, capito, l'acqua salata, però mi ritorna d'inverno, così ha detto. Sì, la psoriasi, sì, c'è un mio collega, ce l'ha, sì. Sono cose fastidiose, queste macchine sono brutte, anche esteticamente ti dà un po' di fastidio, mi. Perché ti fa prurito, capito? Poi ti ha contato i gomiti, non ne ho nel corpo, ne ho appena ce l'avevo una puntina per il petto, una macchia piccolina. Infatti mi ha, come si chiama, ho fatto la visita alla dermatologa, praticamente mi ha ordinato questa cosa, oltre allo shampoo, questa schiuma, poi la farmacia stava detto non c'è bisogno, basta ti metti appena quando ti fa la doccia, un po' dove c'è la macchia, però fai la giro 2 minuti e poi ti sciacqui, va bene anche quello. E va bene, dai. Sì, ti fa prurito comunque, avanti, riprendi Giulio. Ok Luca. Beh certo, è una cosa che va curata, se no si può allargare anche per altre parti della persona, quella è una cosa che va curata, sicuramente. Comunque so che il sole le fa bene a queste cose qua, per cui dovrebbe, in estate adesso dovreste prendere un po' di sole, ce l'aveva la buon'anima di mio cognato che l'aveva, questo disturbo qua, questo problema. Ed estate quando andava al mare e poi gli passava completamente. Sì, rimanevano un tantino le macchie, ma quasi niente, come evidente, come cosa, perché la differenza di colori, la sempre, però bastava inosservato, era proprio una cosa da niente. Capito Luca? Il sole, so che fa bene il sole. Sì. Comunque vabbè, l'acqua del mare dice che fa bene. E adesso vediamo un po'. Adesso facciamo questa cura e poi mi ritagliamo i capelli a zero, ai lati, proprio a zero alla messa, vedere un po' se c'è ancora la macchia, perché se c'è ancora devo riprendere l'appuntamento dalla dermatologa. Ok, vabbè, ma stai attento con la messa quando ti rasi i capelli, stai attento se c'è la ferita, perché quelle sono ferite solo. Vabbè, dai, avanti Franco. Sono una specie di ulcerette piccoline, come dici tu, alla meta sarebbe un po' più discoso, magari usa la macchinetta prima, così vedi già i punti che, capite, se dovessero esserci, meglio che non ce ne sia, Luca. No, ma mica me li faccio io, ma fa il barbiere con la macchinetta, usa la macchinetta normale per fare il taglio, poi ti passa questa macchinetta che fa proprio a coso, a, come si dice, a zero, come se ti passano una lametta, ma non è una lametta. E così vediamo, se no non si vede, se io gli faccio un taglio tipo a uno, no? Che sono corti, non si vede, bisogna fare la lametta a zero proprio, a pelle mi. È come un rasoio da barba, hai capito? Cioè, si fa a zero, come la barba. Luca, vai dall'asino della cruca che ti passa tutto. Tu così hai fatto. E allora? Va bene. Allora, quando arriva fammi un video, fammi vedere come fai. Oh, davvero, sì. È così, è l'istruzione, mia l'istruzione, perché se lo scrivo su YouTube non me lo dà. Devi fare un video per vedere come ti metti. Guarda, una cazza ce ne puoi mangiare di fichi d'India, poi. Non mi piace, ma dai, mi piacciono quelli freschi, quelli normali, dai. Ma Bruno non usa però, Ma il canale di Cocomane che stiamo inventando. Proprio lui è in primis. E poi c'è quel Claudio Spalliero, quello è anche pedivella. Spalliero non vuole entrare oggi. Perché è pedivellomane. Gianni, vediamo un po' Gianni. Gianni, riprendi. E anche Gianni ci vuole più. Allora, ma te le immagini, boh, io non so più cosa pensare, fra. E che dove pensare? Pizzini, so. Ah, Rugaburi Vumma. Sì, zii. Sì, vabbè, dai, già passa, poi del resto è tutto ok, e poi Natali, adesso per il momento sto bene per quanto riguarda i calcoli a cistifele, capito? Se mi vengono di nuovo i dolori faccio tutte le analisi di nuovo, dovrò stare minimo una settimana senza mangiare frutta, verdura, per fare la visita, no? Invece infatti vai impegnativo e ti vai a ricoverare un policlinico, non c'è andare all'ospedale, no? E adesso appena finisco tutte le visite di mamma questo mese, e a lei, vabbè, c'ho dei controlli pure io, e poi a volte finisco mi preparo il tutto. Vaccinato ti sei? Sì. Anche il secondo è fatto, no? Ancora no? No, secondo c'ho il 7 luglio. Esatto. Se c'è quello che dico io, mia, cosa avanti di base? Cioè? Ho capito, cosa è? Se c'è quello che dici tu? Il 7 luglio, Uia. Se c'è quel dottore che ha beccato a me. Ma per il vaccino? Sì, ti vaccino già bene. Che bella, Budusa. Sì. Allora, che cosa, Budu? Oh, yeah. Vabbè, da. Manda le ciance. Ma cuocomane sei tu? Quanto sei cuocomane da 1 a 10? Pure tu lo sai. 12. Manda le ciance e le facciamo riprendere da Giulio, là. Ma le facciamo in serie adesso. Giulio, tu hai fatto i vaccini, entrambi? No, uno solo, il primo ho fatto. Il secondo lo devo fare il 3 luglio. Per cui ancora un po' di tempo e dopodiché dovrò andare ad un orario abbastanza comodo, allora è pranzo, in modo che ci sia poca gente. Sono stato fortunato che mi hanno dato l'appuntamento a quell'ora, come ha fatto il primo addirittura avevo l'appuntamento all'1:10. Beh, tu non ci crederai, ci saranno state, quando sono andato io, non meno di 500 persone. Beh, nel giro di nemmeno mezz'ora ho fatto il vaccino e mi hanno mandato via. Poi però sono rimasto lì per vedere se mi faceva qualche effetto collaterale. Sono rimasto lì un'oretta, ma ormai il vaccino l'ha fatto. In tutto ci avrà impiegato tra la documentazione che hanno voluto, eccetera, eccetera. Massimo, proprio esagerando veramente, 20 minuti, non di più. Poi tra fare il vaccino e tutto una mezz'oretta. Per cui sono andato bene, dai, non ho fatto una lunghissima fila. Va bene, dai, riprendi fra. Sì, anch'io sono andato, nel senso, mi sembra alle 2, avevo appuntamento alle 2, sono andato un po' prima, ho detto no, qui si entra alle 2, fanno, abbordatemi, dalle 2 alle 3 tutti dentro, e ero un po' preoccupato perché c'era un sacco di gente, però come dici tu sono veramente ben organizzati, nel giro di un'oretta ero già a casa, anch'io sono stato lì un quarto d'ora in sala d'attesa, dai, alla fine, 10 minuti, un quarto d'ora, e poi sono andato via, invece l'altro ce l'ho il 25, io, il 25 di questo mese, dai, tra qualche giorno. E io il 19 ce l'ho, il 17 devo fare un eco Doppler, e il 19 vado a vaccinarmi. Comunque dicono che il secondo ti butta un po' a terra, per esempio mio fratello ha fatto il Moderna, il primo tutto ok, il secondo gli ha dato febbre, non stava bene, un po' a terra. Beh, ne sento di tutti colori, c'è chi non è che se ne accorge, né il primo né il secondo, chi è il secondo gli ha dato, come dici tu, un paio di giorni di che sembrava un cane bastonato, chi ha fatto l'ultimo, come si chiama, il Palmolive, come si chiama, il Johnson, era 2 giorni in coma a casa, comunque già passa, dai. Infatti, sì, il Johnson è completo, l'ha fatto il ragazzo della figlia della mia compagna, che abitano fuori continente, lui è chef anche, ed è stato un paio di giorni male. Vuol dire che lo fa, quasi a tutti. Non so perché sarà una dose più massiccia, col fatto che sia monodose, Avanti, è un po' diventato Gianni, ci sei? Ah, quanto dura questo vaccino? 9 mesi, vero? Non dura tanto, io dovevo farlo come i nostri genitori facevano quello antinfluenzale, dai, gli anziani glielo facevano ogni anno, toccherà fare il richiamo ogni anno, mi sa. Andiamo. Avanti, già, va Natali. Va, sì Natali, riprendi. Ma a me il Pfizer non mi ha fatto niente, adesso il 19 vado e mi faccio la seconda dose. Oh, cosa volevo dire? Comunque gli italiani hanno scoperto quello che si piglia per bocca, senza iniezioni né niente. Lo stanno sperimentando. E chi l'ha sperimentato? Cicciolina? No, cosa cicciolina? I biologi italiani. Cicciolina ha inventato un'altra cosa. Oh, chiedo scusa alle signore. No, stavo facendo presupposto adesso del vaccino. Sì, allora vado subito. Chiedo scusa ancora, vai. A parte ci vuole un mister, Natali. Vero, sì. È vero. Franco, una frequenza di travestiti sta diventando. No, ma quando italiano non è ancora abilitato o Natali. Bisogna vedere adesso se funziona veramente. Dicono che sia buono, però devono avere ancora il consenso da dove dipende questo problema qua. Sì, le fece così. Ma io dico che secondo il fisico magari possono risentire un po' e secondo altri magari non sentono niente, o qualsiasi tipo di vaccino che faccio. Mio genero ha fatto la AstraZeneca, tutti e due, lui è farmacista di professione, e non ha avuto niente. Il primo giorno poi trovo il zero completo, il secondo giorno solo per stanchezza, ma niente di più, dice. Altri effetti collaterali non ne ha sentito. Avanti fra. Sì, io ho fatto l'Echinusa, l'Echinusa a me, 4 lupoli, il Pfizer, anche a me, leggermente il braccio indolenzito l'indomani, il giorno dopo ancora, 2 giorni e poi non sentivo più nulla, niente febbre, neanche stanchezza credo, ho visto che ho lavorato tranquillamente, sentivo dei fischi sotto, c'è qualcuno di propagazione forse. Avanti Luca. Era interessante che, vabbè, ma comunque allora, la gente si sta vaccinando, no? Però noto che su Facebook esce sempre la nuova Sardegna, contagi, tre morti, qua e là, un casino, non si capisce più niente, pure un paese addirittura in zona rossa, adesso non mi ricordo qual è, ma non mi ricordo. Vabbè, comunque un paese piccolo, dai. Marito è chiuso, zona rossa. Arizzo, sì, mi veniva il nome, sì, esatto. E vedi, è un casino adesso, come fai? È un casino. Vabbè, però 9 contagi solamente, oggi 9 contagi e 3 decessi, no? Dai, stiamo andando bene, dai, sono in discesa ormai, diciamo, adesso non si sa se è per l'effetto del vaccino oppure se per l'effetto dell'estate, chi lo sa, staremo a vedere, speriamo bene, guarda voi sì. Avanti. Sì, il problema sarà essere i giovani, perché loro non sono vaccinati e loro poi hanno lo spirito di aggregazione, quindi vedremo se anche loro partiranno in massa con la vaccinazione. Poi non è che non te lo prendi con quel vaccino, te lo prendi, però sicuramente non vai in terapia intensiva o in rianimazione, capito? Luca? Ah, ho capito, sì. Comunque poi sto leggendo anche gente che sta morendo per questo vaccino, trombosi qua e là, un casino. Qualche problema l'ha sempre dato, qualsiasi tipo di vaccino, anche insomma per quanto riguarda la preistoria lo stesso, qualcuno trovi sempre il soggetto che è allergico a qualche cosa che ci rimane, però sono sempre casi isolati, sono sempre quelli più, tu mi dai, anche quello era una persona, un essere umano, però purtroppo qualcuno ci rimette le penne, sì, come dici tu. L'ultima signora che è morta a 91 anni, cosa vuoi che la signora di 91 anni non c'aveva patologie? Molti muoiono col Covid, anche se non dicono di Covid, no, è morta col Covid, che magari è una conseguenza, una concausa, dai, avanti giù. Bisogna vedere se effettivamente la causa della morte sia stato il Covid, che lo sa, perché ormai io prima del Covid mi ricordo benissimo, tutti i giorni io guardavo il giornale e c'era una pagina intera sempre di morti, alle volte anche 2 pagine, per cui adesso si parla solo di Covid, come se i morti siano solo di Covid, non è vero, non è così, ci sono c'è quelli con il Covid e c'è quelli per morte naturale o per altre malattie, è così, purtroppo è così, solo che l'italiano è solo bravo a fare i conti a modo suo, e allora tutti di Covid, tutti morendo di Covid, ma non è così, assolutamente. Poi è chiaro, ci può essere anche il caso che può essere una combinazione, che magari uno ha una trombosi anche causata dal Covid, perché no, causata dal vaccino, perché può succedere, certamente sì, e tutto nella vita è successo. Però quando pensi che nel mondo intero mi sembra che ci sono stati nemmeno 200 vittime a causa del vaccino, dunque i benefici sono di una lunga superiori ai problemi che può creare, e questo è da tenere in considerazione. Del resto qualsiasi vaccino ha avuto sempre i suoi effetti collaterali e ne ha fatto di molti, altro che se ne hanno fatti i vaccini. Vai, Fra. Sì. Adesso per esempio mio padre prima di fare il vaccino ha avuto un problema abbastanza serio. Adesso metti caso che l'avessi avuto dopo il vaccino, sarei stato qui a pensare, magari vedi, è stato quello, è stata la causa del problema. E invece mai non c'entrava per niente, capito Luca? Luca! Vai Natali, già sappiamo, Luca fa così ogni tanto. È un cocuomane, per forza fa così. In blackout è andato. E allora? Non è possibile. È Claudio, ci sei Claudio? Claudio è stanco, sta sempre lavorando. E quando si riposa bene, quando finisce tutti i lavori, che si riposa bene, allora entra come prima a farci compagnia. Allora, da quando è diventato campagnolo adesso non ci vuole più. Coltivatore diretto è diventato, caspettina, adesso non ci parla più. molto coltivatore diretto, Lui adesso ha cambiato la sua passione, prima era la radio, adesso invece è il prato, è il giardino e il resto della campagna. Si specializza anche lì, adesso e dopodiché quando va finito tutto, allora ritorna da lui a parlare con lui. E speriamo che faccia fretta però a completare questo lavoro. E allora, adesso mezza le zucchine, citrulli, insomma... Tutto bene, vai.